Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Turno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera siamo in collegamento con Rinaldo Gianola, un giornalista noto. Forse qualcuno di voi lo avrà visto in qualche trasmissione televisiva, in qualche collegamento con Porta a Porta, però è un giornalista che ha un curriculum di tutto rispetto, ha lavorato a Repubblica, ha lavorato alla Stampa, ha lavorato al Sole 24 Ore, ha lavorato all'Unità, anzi è stato anche vice direttore dell'Unità, attualmente scrive sul Corriere della Sera. Ma soprattutto con Rinaldo Gianola volevamo, diciamo così, rispondere alle domande che voi ci inviate, cari ascoltatori, e questa sera ho chiesto un aiuto, come si suol dire, anche perché molte domande riguardano l'Expo, riguardano talune iniziative o riguardano alcune curiosità, e allora ci è venuta proprio questa idea di chiamare in soccorso Rinaldo Gianola. Buonasera Rinaldo. Buonasera a te Armando e a tutti gli ascoltatori, grazie ecco, dell'ospitalità. Grazie a te della disponibilità, ma soprattutto sappiamo che Rinaldo Gianola è anche un fine ascoltatore, perché la moglie Isabella lo conduce continuamente ad ascoltare musica, quindi ci si trova alla Scala, ci si trova nei posti, diciamo così, deputati alle esecuzioni. Ecco, c'è una domanda che vorremmo proprio girare subito a Rinaldo Gianola, perché arriva dal signor Giovanni, che ci scrive qui da una città molto bella ma un po' lontana, perché ci scrive da Agrigento, il quale ci chiede sostanzialmente se grazie all'Expo Milano, diciamo così, ha ampliato le sue possibilità di musica. Beh, io direi che occhio e croce di sì, perché la Scala sostanzialmente tutti i giorni fa una manifestazione, però sentiamo un po' Gianola cosa ci può dire da questo. Milano è diventata una città musicale anche con l'aiuto dell'Expo, anche grazie all'Expo? Beh, l'Expo ha certamente aiutato questa proliferazione di concerti, di iniziative culturali, di manifestazioni pubbliche, gratuite o meno, che diciamo dalla Scala fino al piccolo teatro e poi nel grande padiglione, diciamo, che ospita, nel grande spazio che ospita l'Expo, ci sono ormai quotidianamente manifestazioni musicali, concertistiche di vario livello e direi anche di media alta qualità. E soprattutto quello che si nota in questo momento a Milano è che c'è una disponibilità, un'offerta di proposte musicali che sono certamente di grande livello, di una grande città, cosa ecco, che magari nelle scorse estati, nelle passate stagioni, quando si arrivava a maggio, diciamo la stagione è stata per finire, adesso invece c'è una proliferazione veramente molto, molto ampia e molto bella, direi. Ecco, ma chiaramente questa proliferazione riguarda un po' tutte le iniziative. Expo è stata un po' un motore per la città, perché i ristoranti si sono chi adattati, chi ampliati, chi ristrutturati, chi ha aperto nuovi ristoranti. Insomma, mi sembra che ci sia, al di là dei ristoranti, al di là appunto della musica che dicevamo, ma tutta una serie di iniziative atte proprio così a raccogliere questa opportunità di Expo. È una mia impressione o possiamo dire, signor Giovanni, che è così e di venire tranquillamente? No, direi innanzitutto saluto il signor Giovanni, che mi fa piacere che chiami scriva da Agrigento. Che mi ricorda, diciamo, il mio passato di esperienza militare moltissimi anni fa in Sicilia, in quel posto splendido che era la Valle dei Templi di Agrigento. Ma devo dire che nonostante tutte le lamentele, le polemiche, i ritardi che sono tipici di noi italiani e di noi milanesi in particolare, direi che la città insomma, sente questa novità dell'Expo, la vive e probabilmente ne sta molto beneficiando. E soprattutto mi sembra di capire in questi giorni, dopo questo primo mese di Expo, che c'è un valore che si sta spalmando sull'intera città, sulla popolazione, cioè la gente, le persone, i cittadini vivono l'Expo come un'iniziativa e una bella della città, e quindi questo favorisce una partecipazione non solo nei padiglioni ma in giro per la città molto positiva, direi. D'altra parte, in coincidenza con l'Expo, i milanesi possono beneficiare oggi di alcune iniziative pubbliche molto rilevanti. C'è una nuova linea della metropolitana, è stata riaperta la Darsena, sono stati aperti un paio di musei di privati ma di livello internazionale, come la Fondazione Prada, il sito Sarmani e così via. Quindi c'è una specie di mobilitazione che mi sembra di poter sintetizzare in quella frase, con la definizione del Financial Times, che recentemente ha parlato di Milano come di una città frizzante. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Turno dai microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento con Rinaldo Gianola, ricordo giornalista, ha lavorato in innumerevoli testate, ma giornalista anche, diciamo così, di chiara fama, proprio anche per i suoi interventi economici. E questa sera ci dà una mano proprio per sbrigare la corrispondenza, come si suol dire, e intanto, avendo un occhio particolare su Milano e sull'Expo, diciamo così, ci aiuta a rispondere già alla prima lettera che chiedeva di queste notizie. Adesso vorremmo fare un passo, diciamo così, avanti e passare, prima di passare alla seconda lettera, volevo chiedere semplicemente a Gianola, così anche per dovere d'ospitalità, se lo Schumann gli è piaciuto, se quell'allegretto, quel dialogo tra il violino e il pianoforte è stato gradevole almeno. Sì, direi che rasserena la domenica. Rasserena la domenica, almeno la domenica sera. Ecco. Ma adesso passiamo a qualcosa di leggermente più triste, anche se non si sa poi nell'economia della musica se è particolarmente triste, ed è il Requiem tedesco di Brahms. Ci scrive, e qui c'è tutta una discussione perché è abbastanza bella, ci scrive il signor Antonio da Pescara, il quale deve essere probabilmente una persona che ha fatto ricerche su questo Requiem perché gli è particolarmente caro, gli è particolarmente, diciamo così, è una musica che sente anche al di là di quelle che possono essere le occasioni di un Requiem, e mi chiede se il secondo movimento del Requiem appunto è nato attraverso tutta una serie di peripezie, anche perché ha letto in una pubblicazione su Brahms che questa parte ha avuto, diciamo così, una genesi piuttosto complessa. E diciamo che il signor Antonio ha colto un po' nel segno, anche perché il secondo movimento del Requiem non è nato proprio così quando Brahms ha fatto il Requiem, anche se il Requiem, diciamo così, nasce dopo tutta una serie di iniziative, perché non bisogna dimenticarlo che il Deutsche Requiem, nella forma in cui lo conosciamo oggi, venne presentato per la prima volta a Lipsia nel febbraio del 1869. All'epoca Brahms aveva compiuto i 36 anni e si sapeva quasi niente di lui, che era un pianista le cui composizioni avevano fatto un'ottima impressione a Liszt e a Schumann, e che era direttore di coro ad Amburgo, a Vienna, a Detmold, ma non aveva scritto alcuna opera di grandi proporzioni se non qualche brano cameristico, tra i quali c'era il quintetto per pianoforte in fa minore e il concerto per pianoforte in re minore. Brahms era praticamente quasi uno sconosciuto. E Brahms, non dimentichiamoci che è legato, il Requiem nasce da tutta una serie di situazioni che vedono innanzitutto, diciamo così, l'amicizia con Schumann, che lo spinse a scrivere una sonata elegiaca per due pianoforti, ma non tardò a sentirsene insoddisfatto, iniziò quindi ad adattarla in sinfonia, fece tutta una serie di cose. Poi c'è la morte di Schumann e c'è tutta una serie di cambiamenti che avvengono nella vita di Brahms. Ad esempio, il concerto per pianoforte in re minore, il lento, Brahms non esitò a riconoscere che si ispirasse a una melodia corale che aveva già impegnato nella sua cantata 197. E cosa ha fatto? Questo lento, questa melodia, l'ha usata poi per finire nel Requiem. Schumann intanto era morto nel manicomio di Endenich, nei pressi di Bonn, e in precedenza a questi avvenimenti Brahms aveva avuto intenzione di incorporare questa marcia funebre, questo momento, in una cantata a quattro tempi, ma nel 1865, i primi tempi del 1865, c'è la morte della madre, a cui era molto affezionato, gli fece cambiare idea e Brahms trasformò il Requiem in forma di composizione in sei movimenti. Quindi è tutta una serie di incastri, di situazioni. Quando si studia la genesi di un'opera si scoprono sempre un po' anche tutte quelle che sono le esitazioni, le perplessità, gli scatti di un musicista. E mentre Brahms, diciamo così, attende il Requiem, muore l'amico, muore la madre, quello che è il movimento di una sinfonia viene trasformato, poi viene lasciato lì, poi viene riadattato, poi quel movimento non diventa più una cantata, diventa addirittura un requiem in sei movimenti, diventa tutto un po' così. La genesi delle opere del resto è quasi insondabile, noi possiamo osservarla dall'esterno, ma quasi mai riusciamo a cogliere gli effetti. In collegamento con noi al telefono ricordo giornalista che ha lavorato alla Stampa, a Repubblica, al Sole 24 Ore, all'Unità, è stato anche vice direttore dell'Unità e ora scrive sul Corriere della Sera, ma non soltanto, dovremmo anche raccontare dei suoi libri perché ce ne sono diversi, scritti anche con illustre personalità. Adesso non vorrei far tutta la propaganda, ma Rinaldo, ce ne ricordi uno? Ma non so, ti ricordo l'ultimo, sì. Scritto da solo, però si chiamava Diario Operaio. Diario Operaio. Era un libro sulla crisi italiana. Sulla crisi italiana. Poi ce n'era uno precedentemente, facciamone un altro, scritto con un capitano d'industria, se non sbaglio. Sì, era un'intervista con Roberto Colaninno sui suoi 10 anni di fuoco dall'Olivetti alla Telecom, alla Piaggio. Ecco, adesso portiamoci in un ambiente, diciamo così, incantato come Venezia. La signora Annalisa ci scrive da Mirano. Mirano è accanto a Venezia, penso che sia una delle ultime uscite sull'autostrada, troviamo Dolo Mirano appunto, e questo lo dico anche per coloro che magari non hanno mai percorso l'autostrada oppure l'hanno percorsa distrattamente, che va appunto verso Venezia, verso Mestre, e ci chiede qualcosa del Gloria di Vivaldi. Io volevo semplicemente anche chiedere a Rinaldo Gianola qualcosa di Venezia, se ci può dire una sua impressione proprio, questa città che... Non so, Venezia è una città a cui io sono molto legato, voglio molto bene, anche per problemi, legami familiari e così via. Devo dire che negli ultimi anni ci si va, diciamo, forse più raramente che in passato, anche perché se devi andare a Venezia a starci qualche giorno devi praticamente accendere un mutuo ormai, quindi adesso lo dico con simpatia rispetto a chi opera e lavora a Venezia, però certamente non è una città che induce, diciamo, il visitatore a fermarsi, a riflettere sulle bellezze di questa città, insomma, ecco, anche se rimane naturalmente uno dei nostri gioielli della nostra cultura, soprattutto della nostra storia, direi in generale, insomma, ecco. E purtroppo, sai, quando una città diventa così ostaggio e beneficia di 24 milioni di turisti all'anno, perché questo è il numero che arriva su Venezia ogni anno con i famosi transatlantici o le comitive organizzate, la città naturalmente viene messa a durissima prova di resistenza e quindi sì. Questa nostra storia, questi nostri gioielli fanno fatica poi a resistere, a comportarsi e a reagire in modo adeguato, ecco, direi. Certo, anche perché la signora Annalisa, Mirano, Venezia, insomma, accanto, ci pone una questione che è praticamente irrisolvibile, e ci pone una questione sulla Gloria di Vivaldi. Gloria di Vivaldi, ricordo, è un mottetto per due soprani, contralto, coro a 4 voci miste, oboe, tromba, archi e basso continuo, è un piccolo gioiello del catalogo di Vivaldi, è qualcosa di unico. Dice: io non l'ho mai sentito eseguire in una chiesa. Perché la chiesa non, diciamo così, recupera queste musiche, soprattutto non ne fa, diciamo così, un uso liturgico? Beh, su quest'ultima parte possiamo tranquillamente dire che la chiesa ha fatto un'altra scelta dopo il Concilio Vaticano II per le musiche, peraltro, ed è una risposta che forse le potrà dare qualche esperto di liturgia oggi. Certamente noi abbiamo un patrimonio incredibile, non soltanto d'arte eccetera, ma anche nella musica che abitava quest'arte, abitava le chiese di Venezia, abitava le chiese di tutta Italia e che ora si può sentire magari in qualche sala, magari da qualche parte, ma certamente è completamente, diciamo, decontestualizzata e diciamo che è qualcosa che rimane isolato per il suo spirito, per le sue composizioni. In fondo Vivaldi era un prete di Venezia, suonava in un orfanotrofio con le orfanelle, alle orfanelle metteva in mano le sue composizioni, queste suonavano, erano dei perfetti esecutori, degli esecutori anche entusiasti, eccetera, così, ma era tutto nell'ambito della pietà, in un ambito ecclesiastico, in un mondo che in fondo produceva ascoltava, godeva della musica, ed è un mondo completamente finito. Oggi non possiamo nemmeno più immaginarcelo. Non so se Gianola vuole aggiungere qualcosa, ma in chiesa è quasi impossibile ascoltare oggi, diciamo così, se non per qualche occasione particolare, questa musica della tradizione, questa musica particolarmente bella. Uno chiaramente era anche, diciamo così, incentivato, aiutato ad entrare in chiesa, ad ascoltare una funzione. Con questa musica era effettivamente più facile anche avere, diciamo così, delle ragioni. Io non dico che tutti coloro che hanno fede lo hanno avuta perché hanno amato la musica o per altri motivi, però la musica era parte in fondo della preghiera, parte di questo disegno in fondo che faceva parte dei credenti. Penso comunque che sei d'accordo che questa sia una musica celestiale. Sì, certo, sì, ma e poi non perde naturalmente la sua bellezza col passare del tempo, anzi, assolutamente. La riscoperta e la riesecuzione sono veramente da cogliere come delle novità ogni giorno. Effettivamente, questo comunque è il grande patrimonio che noi abbiamo e che sovente ci dimentichiamo di utilizzare. Ma con Rinaldo Gianola tentiamo ora di rispondere a questa lettera che ci giunge tra l'altro da una città che ha una storia gloriosissima, perché è Ferrara, e dove la signora, che si chiama Ginevra, la signora Ginevra però abita a Ferrara, ci chiede appunto delle notizie sulla composizione, sull'opera di Stravinsky, su Petrushka, e ci chiede se è vera tutta una serie anche di piccole leggende che si è mescolata, eccetera, così, se ha avuto dei problemi come Le Sacre du Printemps, la sagra della primavera. Diciamolo pure che la primavera, poverina, esordì a Parigi nel 1913 al Théâtre des Champs-Élysées e lì finì in un macello, ma poi subito dopo venne ripresa e giustamente portò al successo Stravinsky. La prima fu veramente sfortunata perché ci furono lamentele di ogni genere, poi in quel tempo era normale ogni tanto avere qualche fiasco clamoroso. Non dimentichiamoci che quando a Milano al Dal Verme, dietro poi in quegli anni, poco prima, la musica futurista, ci furono addirittura una dozzina di feriti perché un musicista futurista si fece ingessare un braccio e picchiò addirittura molti del pubblico che non avevano capito la musica dell'intorno rumore. Cioè succedeva un po' di tutto, erano anche atti, chiamiamoli così, che dovevano essere messi un po' nell'economia di quel mondo. A Parigi capitava e ovviamente c'era tutta una critica, c'era tutto un mondo che era lì a sostenere questo fuoco. Ma Petrushka, che invece è stata fatta con Diaghilev, non ebbe questa sorta, anche se è un'opera vicina e anche se, ripeto, il successo fu più lento del previsto, ma comunque con Diaghilev Stravinsky lavorò benissimo. Champs-Élysées, Théâtre des Champs-Élysées. Rinaldo, che cosa ti ricorda? Ma guarda, Stravinsky devo dire che mi è un po' lontano come autore. L'unica cosa che mi viene in mente, che però certamente qui scendiamo un po' di tono rispetto alla tua introduzione, è che io ricordo aver letto qualche anno fa un pamphlet su Parigi e sui personaggi del mondo della cultura che vivevano, hanno vissuto nel corso dei secoli a Parigi, che persino Stravinsky però era un uomo di mondo, cioè pur essendo un russo di origine, sì. E mi ricordo che questo pamphlet si descriveva, diciamo, la relazione che si supponeva lui avesse avuto con Coco Chanel ai tempi, e quindi diciamo è una curiosità che mi è rimasta in testa adesso che tu parlavi così saggiamente di Stravinsky. Insomma, e di Parigi cosa dobbiamo dire? Che è una nostra città, è come, diciamo, per gli italiani andare a Parigi è come stare a casa, insomma, secondo me, quindi è una cosa così familiare che ci troviamo benissimo, insomma, sempre comunque. Ecco, e quindi diciamo che un avvenimento a Parigi è un po' anche un nostro avvenimento. Abbiamo terminato e ci restano pochissimi secondi per salutarci, cari ascoltatori e caro Rinaldo. Cosa possiamo aggiungere? Ma per me è stato un un piacere essere vostro ospite, quindi ti ringrazio dell'ospitalità, ringrazio Radio 24 e saluto caramente tutti gli ascoltatori. E anche da parte nostra c'è un ringraziamento per Rinaldo Gianola e c'è anche un ringraziamento per tutti voi che ci scrivete, che ci seguite, soprattutto chiamate questa trasmissione. Vi do dunque appuntamento come sempre domenica prossima alle 21, un cordiale saluto da Armando Torno e da Rinaldo Gianola.